Ciao a tutte, ciao a tutti. Siamo in collegamento con una compagna da Genova, della pellicceria occupata, perché questa mattina la pellicceria è stata sgomberata, vero? Ciao. Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti. Sono qui da Genova, dalla pellicceria occupata e come diceva lei, niente, questo spazio stamattina è stato sgomberato. E lo sgombero è ancora in corso perché è uno spazio molto grande, è un palazzo di 5 piani e con anche degli spazi sulla strada e quindi l'operazione di sgombero è molto, molto lunga perché c'è tanto, tanto, tanto materiale da portare fuori e da salvare. E per chi non lo sapesse, cioè, questo è un palazzo che è stato occupato nel novembre del 2012 e sono già anni Senti, scusami un attimo, parla più vicino al telefono perché la comunicazione è disturbata. Non mi senti? Sì, adesso ti sento meglio, prima saltava la voce a tratti. Ho Perché sono all'interno e fuori capito. però c'è tutta la polizia, per Ho cui se riesci ad capito. entrare dentro. Va bene, dai, dai. Vado, ma Vai, vai. ripeto. Vai, vai, vai, si sente anche un po' meglio, dai. Allora, niente, stavo raccontando dello sgombero di questa mattina, che appunto è ancora in corso perché abbiamo tanto materiale dai vari piani da salvare e da portare fuori. L'occupazione ha 4 anni di vita, il palazzo è stato occupato nel 2012 a novembre. E per chi c'è stato, per chi l'ha conosciuto e l'ha visto, è uno spazio enorme con piano abitativo e poi tanti spazi, diciamo, aperti dalla palestra al cinema, al fondo con le iniziative, concerti e poi una piccola libreria, una ciclofficina, quindi uno spazio, cioè, completamente ricostruito, recuperato all'abbandono di 15-16 anni da parte dei proprietari e pieno di attività e di iniziative, di nostre vite, nostre energie che stanno così, vengono sgomberate in questo momento. Lo sgombero è ancora in corso proprio per le dimensioni e noi stiamo cercando di non lasciare assolutamente nulla all'interno perché in tutti questi 4 anni abbiamo fatto un lavoro, come dire, impegnato, cioè, fortissimo a recuperare, a trovare un sacco di materiali che hanno reso possibili proprio l'utilizzo dello spazio in tantissimi modi. E quindi vorremmo, ed è quello che stiamo facendo, salvare ogni singola cosa che noi abbiamo portato qua dentro. Molto probabilmente verrà sequestrato, chiuso e ritornerà all'abbandono, diciamo, che l'ha caratterizzato prima che arrivassimo noi. Dietro ci sono i proprietari che sono delle famiglie, dei privati, sono una serie di famiglie ricche della Genova Bene che hanno semplicemente interesse a rientrare in possesso del loro stabile perché lo vogliono vendere. Sappiamo che c'è un'asta in cui lo stabile è in vendita, ma sappiamo anche che è andata deserta perché la cifra di base di partenza è spropositata e molto probabilmente nessuno mai comprerà questo palazzo e rimarrà solo come così, a testimonianza di una sterile speculazione che non porterà a niente, rimarrà vuoto come è stato appunto, dicevo prima che arrivassimo noi. E questo è appunto il destino di tante occupazioni nella città e così che ci siamo svegliati questa mattina. E noi... Ah no, no, continua, continua, dai. Ora noi stiamo cercando di fare anche un po', come dire, mente locale, capire come muoverci, diciamo chiaramente, non che, cioè, uno spazio occupato è sempre minacciato da sempre, non Certo, è mai sicuro questo e sicuramente. è stato come dire, un colpo e un fulmine che ha ciel sereno e siamo qua e molta gente Noi... che è venuta a portare solidarietà, molta gente che ci sta dando una mano a portare via le cose, c'è tutta parte intorno che è stata, tra l'altro questo palazzo è in centro storico a Genova, per chi conosce sono tutte strade molto strette, vicoli, anche con difficile accesso per i furgoni, quindi che l'attività dello sgombero è lunga e sta richiedendo tra l'altro anche delle spese enormi, Enorme, perché sono immagino. della È certo. mobilità l'agitazione che hanno messo in campo per nulla, per tutto questo. E dicevo, stiamo cercando di fare un po' mente locale, stiamo facendo girare l'informazione e allo stesso tempo però appunto siamo impegnati qui e ci siamo dati un altro appuntamento alle... Se lo posso lasciare? Ecco, guarda, noi volevamo... No, darvi la solidarietà è scontato e anche banale, ma noi abbiamo un'affezione particolare tra l'altro per Pellicceria Occupata, perché sì, abbiamo condiviso tante cose, è un bellissimo posto, era, l'avete fatto, ne avete fatto un bellissimo posto. Era pieno di attività, pieno di robe, veramente noi quando siamo venute su siamo rimaste molto colpite sia dalla bellezza di quello che ci avevate fatto e sia anche dalla collocazione, perché la collocazione era strategica all'interno di Genova, dei vicoli di Genova, ed era, era diciamo un riferimento, si vedeva proprio che era un riferimento, e infatti questa cosa qui è una cosa che ci lascia assolutamente sconcertate, perché quando si intaccano posti di questo tipo si intacca anche, come dicevi tu, tutto il tessuto intorno che vi faceva riferimento, no? Certo. Infatti, come ricordi tu, abbiamo fatto anche molte iniziative assieme. Certo. Molto belle, interessanti, partecipate, abbiamo fatto anche l'autodifesa. Certo. Che ora non avrà più la palestra in cui poter continuare a praticare e molto molto altro. E poi appunto sì, sono assolutamente d'accordo. Rientra nella dinamica anche di normalizzazione del centro storico, perché già da parecchio c'è proprio in piedi una attività di messa in sicurezza, come la chiamano loro, con la presenza degli alpini, dell'esercito, dei carabinieri che fanno ronde continue con la scusa del degrado, della situazione, dello spazio, però cioè, sono fondamentalmente loro che portano degrado. Esatto, no? È tutto il contrario di quello che propagandano, no? Nel momento in cui si militarizza un luogo perde completamente l'anima, per cui certo. Tutto quello che riuscivi a fare, la socializzazione anche rispetto agli abitanti, a chi ci passa, cioè, viene completamente certo. Meno. Qui noi a Roma l'abbiamo verificato da tanto tempo, c'è cioè il centro storico che ha completamente... ad ogni angolo le camionette di questo, di quello, dagli alpini, sì, che poi spessissimo sono gli alpini, cioè hanno distribuito gli alpini per l'Italia, no? E quindi anche da noi è un peso, una presenza molto molto ingombrante proprio dal punto di vista della destabilizzazione del tessuto del centro, sì. Certo, sì, poi è comunque uno spazio che era vissuto ed era anche così proprio nel centro storico accessibile. Senti, ma anche la libreria? Anche la libreria, io adesso ti sto parlando dalla libreria che è assolutamente baraccata. L'abbiamo, cioè siamo solo nella libreria, siamo riusciti, vediamo fino a che, ma insomma è proprio una cosa di principio. E come avete fatto a imballare tutti quei libri? Diciamo non siamo riusciti a non far entrare polizia e Nicos qua dentro, e abbiamo messo in salvo tutto il patrimonio di libri, c'è tutta la distro, la distribuzione col materiale in vendita, e poi c'è anche un archivio, abbiamo messo tutto in scatola e lo stiamo portando in un altro spazio in sicurezza, diciamo, siamo distanti certo. Dagli spazi della città, certo. Stanno dando solidarietà e stanno accogliendo le nostre cose, però sì, sì. Ti parlo proprio dalla libreria, che è proprio l'emblema, è certo. Pregio, diciamo, dei soggetti per cui cioè, senti, e che cosa, e come pensate di muovervi a questo punto? Allora, a questo momento, diciamo, come dicevo prima, stiamo cercando un po' di gestire ora tutta la questione, che non è ancora finita, chiaramente, credo che durerà parecchie ore, perché è veramente una mole di cose certo. Enorme. E poi ci siamo dati un appuntamento per le 6. Una piazza del centro storico, piazza delle Vigne nel centro storico, perché forse Certo. Tipo venire a raggiungere, e pensavamo di uscire con un piccolo corteo in base poi alla partecipazione, vediamo in centro, e un po' il racconto e la presenza, diciamo, nostra, e raccontare un po' questa giornata. Questo, cioè, per il momento, ecco, così a caldo. Poi valuteremo ovviamente anche. Penseremo altre cose rispetto a tutte le iniziative che comunque erano in piedi, gli appuntamenti che erano in piedi, l'autodifesa, certo, il cinema domenica, cioè ci sono tante iniziative che vedremo se valuteremo, ecco, cosa fare. Cosa fare? Per ora il primo appuntamento che ci siamo dati è questo. Va bene. Per comunicare un po' quanto. Certo, sì, per uscire fuori, e, certo, e far sentire quello che è successo. Senti, allora, noi continuiamo a essere basite rispetto a questa cosa, vi abbracciamo tantissimo perché la pelliceria in effetti è anche un pezzetto di noi, l'abbiamo vissuta in modo molto felice e quindi ci fa stare malissimo, per cui un abbraccio a tutte, a tutti, grazie tantissimo, a sentirci molto presto, fateci sapere tutto, va bene? Grazie. Grazie tanto, un abbraccio anche a tutte voi, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao.